La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto della versione di Oscar in diretto in podcast. Sono le 16:31 primi, una manciata di secondi in questo lunedì 9 maggio 2016. Vado subito all'argomento del giorno. Oggi si parla di giustizia, in particolare io vorrei l'opinione, e quindi telefonate se potete all'800240024 di avvocati. Perché? Perché parleremo di uno dei punti più infuocati del braccio di ferro tra politica e magistrati. La politica e i magistrati, lo sapete, sono tornati in conflitto. L'intervista di Davigo 10 giorni fa del presidente dell'ANM, le repliche del PD, la replica di uno dei componenti laici non toccati dal CSM, l'avvocato ed ex parlamentare PD Giuseppe Fanfani, travolto poi in poche ore e costretto a fare una, secondo me, giusta marcia indietro, visto che aveva detto: non conosco bene gli atti dell'arresto del sindaco di Lodi, ma mi sembra improprio se non conosci gli atti. E poi comunque un membro del CSM dovrebbe sapere che il CSM non entra nelle vicende giurisdizionali. Poi l'intervista al Foglio del membro, questa volta togato, del CSM, Pier Giorgio Morosini, ex segretario di Magistratura Democratica, in cui dice: no, bisogna fermare il governo. Anche lui ritratta poi questa intervista che era pubblicata sul Foglio. Il ministro Orlando, che doveva incontrare a questo punto questa mattina il, così era annunciato, il vicepresidente del CSM Legnini, ex PD anche lui, e l'incontro è slittato a quanto pare a domani o dopodomani, per verificare proprio come il CSM intenda affrontare l'aspetto, per così dire, istituzionale successivo alle esternazioni di Morosini, e cioè una circolare, un atto del CSM volto a dare delle regole per contenere in qualche modo l'espressione, l'esternazione di opinioni politiche da parte dei magistrati. Mi chiedo come si possa fare, a dire la verità, perché i magistrati possono, in realtà dovrebbe essere un senso di opportunità quelli che li frena, però siamo nella libera espressione di opinioni. L'incontro non c'è stato e nel frattempo è annunciato per domani un incontro tra il ministro e Davigo, quindi il presidente dell'ANM, che è all'origine di questo rincrudimento delle polemiche. E nel frattempo però sabato il ministro Andrea Orlando ha tenuto una conferenza stampa su uno dei punti più arroventati della polemica, cioè quello del regime delle prescrizioni nei procedimenti penali del nostro paese, e ha dato una serie di dati di poco aggiornati, perché i dati che si conoscevano già erano quelli relativi all'incidenza delle prescrizioni negli anni fino al 2014. Lui ci ha aggiunto qualche considerazione anche sul primo semestre del 2015. E in questa conferenza stampa è tornato a dire che è fiducioso del fatto che entro l'estate si sbloccherà l'impasse in Parlamento per un reintervento sui tempi delle prescrizioni. Allora, chiedo agli avvocati se siete davvero d'accordo che il problema, come emerge dai dati che noi vi sintetizzeremo oggi, sia davvero quello di un aumento ordinamentale dei tempi di prescrizione, o cominciando non da quando è commesso il reato, per ipotesi nella notizia criminis, ma dall'apertura del fascicolo giudiziario, oppure non solo facendo questo ma anche ulteriormente allungando i tempi del blocco delle prescrizioni di grado di giudizio in grado di giudizio, cioè tra l'appello, tra il primo grado e l'appello, l'appello e la Cassazione. I numeri di cui ha parlato Orlando davvero comprovano che c'è un'emergenza tale da dover reintervenire allungando i termini di prescrizione, o ci dicono un'altra cosa? Vi dico subito, prima di presentarvi l'ospite, che io ho scritto su questo tema, ho scritto per il Messaggero al Mattino, e vedremo i numeri come li ha fatti il ministro. Io sono pieno di dubbi, anzi sono, la mia opinione è contraria al fatto che comprovino la necessità di allungare i termini di prescrizione, perché a me sembra che i numeri ci dicano un'altra cosa. Però mi interessa, visto che il dibattito sui giornali è tra politica e magistrati, sentire l'opinione degli avvocati, perché a dire il vero la prescrizione nasce negli ordinamenti a tutela dei diritti degli indagati prima, dei rinviati a giudizio, degli imputati poi, e nasce come istituto di garanzia nei confronti di eccessi da parte dello Stato, e io difendo questo, che è la ragione di esistere delle prescrizioni. La difendo di fronte al fatto che noi abbiamo una Costituzione, lo ricordo a tutti, che da una parte continua ad affermare, va ricordato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'articolo 112, ma poi ha un altro articolo 111 che è stato modificato nel tempo sulla giusta durata di un giusto processo, e allora bisogna contemperare queste due cose. Allora, cominciamo con il vedere i dati, uno, due. Vediamo se ha ragione o torto chi dice negli altri ordinamenti non funziona la prescrizione come in Italia, è molto meno, tra virgolette, garantista nei confronti degli imputati, e la risposta sarà, come vedrete, sì, è vero, però allora bisogna vedere come sono diversi gli altri ordinamenti e poi vediamo le conclusioni. Le conclusioni sono: bisogna allungarli questi termini di prescrizione in generale e in particolare per alcuni reati, perché per i magistrati quello che conta soprattutto sono i reati societari delle imprese e quelli contro la pubblica amministrazione, corruzione e concussione. Oppure bisogna invece fare altro? Ecco, e su questo mi interessa l'opinione di tutti gli avvocati, perché quella dei magistrati la conosciamo, quelli della politica vediamo, ci sono opinioni diverse all'interno del governo, ma comunque mi pare di capire che il ministro Sabato, nel dirsi sicuro che si andrà a un'approvazione di questo, della norma che è stata bloccata per oltre un anno in Parlamento, ha riconosciuto che sì, ci sono anche problemi organizzativi, ma insomma bisogna cambiare le norme. Quindi l'idea è che c'è un riconoscimento del fatto che la richiesta dei magistrati verrà, vedremo in che misura, in realtà fatta propria dal governo e dalla maggioranza, che sono infiacchiti perché il morso delle indagini è molto pesante, come ovvio, e avete sentito che ieri in televisione, smentendo chi diceva nel PD che non c'è una questione morale, ieri il Presidente del Consiglio in televisione ha detto: no, beh, certo che c'è una questione morale nel PD, del resto ha detto: noi abbiamo oltre 50.000 amministratori, anche questo aiuta a spiegare, però ha ammesso che il problema esiste nel suo partito. Lasciatemi dire che poi, quando uno vede che la lista comunale a Napoli del PD candidano anche quello che pagava i votanti alle primarie con gli euro fuori seggi, mi chiedo io poi quanto nel PD riflettano su quello che fanno, perché a me sembra una roba che non consente di dare poi lezioni di legalità. Sto parlando di Napoli e non del Partito Nazionale, però già c'erano state le impugnative di Bassolino non accolte, non sono sospettato di essere simpatizzante di Bassolino, ma se mettete addirittura in lista Cara Valente, candidato sindaco del PD, chi pagava fuori seggi, ripreso in quanto tale, che difende in intervista questa cosa come un dono, bah, non lo so, a me viene veramente di che ridere. Allora, ora vi presento l'ospite, lasciate che vi dica un'altra battuta che poi consegno a Focus Economia, Sebastiano Barisoni che ci segue, perché questa mattina c'era la relazione annuale della Consob al mercato economico e finanziario. La relazione è stata tenuta dal presidente Giuseppe Vegas, che a un certo punto si è autoassolto da ogni ipotesi di corresponsabilità della Consob in relazione agli acquisti di titoli e obbligazioni bancari nelle banche italiane. Ha detto: noi, chiunque li ha comprati era in regola con quanto previsto dalle norme, perché i moduli informativi erano conformi alle norme. Un'autoassoluzione totale. Trovo questa cosa da terzo mondo, è molto scandalosa, molto scandalosa. Primo, su cosa stanno indagando allora le procure per le quattro banche risolte, per Banca Etruria e così via? Trovate sui siti dei giornali novità giudiziarie secondo le quali si stanno accertando in diverse banche esattamente violazioni palesi degli obblighi informativi agli acquirenti delle obbligazioni subordinate, non in linea con quello che si sapeva da metà 2013, che sarebbe stata la nuova scala di compartecipazione delle obbligazioni subordinate alla ripartizione degli oneri in caso di liquidazione bancaria con il bail-in, con dei veri ordini dall'alto venuti a chi vendeva queste obbligazioni alle sportelli delle banche, tali da non informare chi gli acquistava dei rischi. E quindi su cosa indagano le procure su questo? Come può il presidente della Consob autoassolversi? E poi in più, perché allora stiamo disponendo per decreto del governo il rimborso agli obbligazionisti con un discutibilissimo criterio di reddito e patrimonio, che secondo me non c'entra un piffero, delle quattro banche risolte fino all'80% di quanto hanno perso, se non perché sono stati truffati? È possibile vivere in un paese in cui milioni di italiani hanno paura, dopo quello che è successo, dei loro investimenti nelle banche, e dirgli che le autorità si sentono superiori a qualunque responsabilità rispetto a prassi così evidenti di aggiramento delle norme prudenziali e nella valutazione dei rischi patrimoniali di chi ha comprato i titoli? Una roba da terzo mondo. La mia opinione è che la politica dovrebbe far rinsavire chi alla testa di autorità crede di potersi concedere patenti di autoassoluzione. Sì, parole pesanti, me ne assumo la responsabilità, come è ovvio. Allora, il nostro ospite per parlare dei numeri della prescrizione, di che cosa derivare dalla conferenza stampa del ministro, è il presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, Beniamino Migliucci. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, il ministro Orlando ha iniziato dicendo che siamo in presenza di un aggravamento dell'emergenza prescrizioni, perché lui dice che le prescrizioni sono aumentate, erano 113.671 procedimenti penali finiti in prescrizione nel 2012, sono saliti a 132.000, quindi 19.000 in più nel 2014, e anche nel primo semestre del 2015 sono in aumento. Io sono andato a vedere, nel decennio c'è un calo clamoroso, perché il calo clamoroso è che nel 2004 le prescrizioni erano 213.000, nel 2011 erano scese a 128.000, e pur con le 132.000 del 2014 rispetto alle 213.000 di 10 anni prima c'è un calo clamoroso. Secondo lei il ministro ha ragione nel condividere l'allarme dei magistrati sull'aumento delle prescrizioni dal 2013 al 2014? È giusto ed è corretto che un paese civile cerchi di avere meno prescrizioni possibile, ma il dato è inequivoco. Le prescrizioni sono diminuite di quasi la metà, quindi non è un'emergenza. E tra l'altro sul punto vi è una mistificazione evidente e si fa riferimento spesso all'Europa, sostenendo che l'Europa si scandalizza perché i termini di prescrizione dovrebbero essere più lunghi. Non è così. Anche il GRECO, che è il gruppo di lavoro degli stati che si occupano della corruzione, ha richiamato l'Italia nel senso opposto, cioè ha detto che sarebbe bene che i processi che riguardano la pubblica amministrazione, i reati contro la pubblica amministrazione, venissero celebrati in tempi ragionevolmente brevi, che è esattamente il contrario. Quindi allo slogan di questi giorni, prescrizione più lunga, processi più brevi, dobbiamo dire che si tratta di uno slogan equivalente quasi a una truffa, nel senso che allungare i tempi di prescrizione significherà soltanto allungare i tempi del processo, e quanto sia inutile questo provvedimento è stato anche stigmatizzato anche dal presidente Cantone, se occorresse, ma non occorre rifarsi a lui, o dal procuratore Nordio, che hanno ricordato come in realtà la prescrizione sia poi uno strumento di garanzia per il sistema. Anzi, vorrei dire che se non ci fosse la prescrizione i processi sarebbero interminabili, e non credo che interessi a qualcuno sapere se una persona è innocente o colpevole dopo 20 anni, e non credo che sia di un paese civile fare in modo che una persona debba sopportare un processo per 20 anni. Non credo che interessi neanche alle persone offese sapere se una persona ha fatto loro del male 20 anni dopo, e neppure alla società. Quindi credo che la ricetta giusta per cercare di eliminare questo, che è un problema ma che deve essere eliminato con delle riforme sistematiche, vada nel senso totalmente opposto, e ricordando anche quei principi costituzionali ai quali lei faceva riferimento e che magari non piacciono più tanto, cioè l'articolo 27, per il quale non si può irrogare una pena a una persona che sia totalmente cambiata. Dopo 20 anni non si sa, magari è cambiata, sicuramente non ha bisogno di una rieducazione o di un reinserimento. Oppure l'articolo 2, che prescrive il diritto alla vita, cioè io ho diritto di organizzare la mia vita per 20 anni, o il processo deve essere una punizione in sé perché io lo devo sopportare per un tempo così lungo nel quale sarò evidentemente rovinato? L'articolo 111 ci interessa ancora o no? E l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che dice appunto che perché vi sia un processo equo e giusto, questo deve essere ragionevolmente breve. Tra l'altro, statistiche hanno documentato, lo ricordava il professor Micheletti in un suo studio, che allungando i tempi di prescrizioni non ci saranno meno prescrizioni, ma le prescrizioni avverranno soltanto qualche tempo dopo, perché il problema è quello della obbligatorietà dell'azione penale, che dovrebbe essere più flessibile. Bisognerebbe cercare di avere una riserva di codice. Noi siamo il paese che prevede più condotte sanzionate penalmente nel mondo, ne abbiamo più di 30.000. I cittadini quando si svegliano non sanno neanche quale condotta sia permessa o meno, e quindi non sanno neanche orientare il loro modo di agire alla prevedibilità delle condotte e delle sanzioni. Quindi io credo che la cosa più importante da fare è quella che pure il ministro peraltro ha detto, cioè riconoscere e fare una diagnosi esatta della malattia. Il problema è quello delle carenze organizzative, delle risorse. Aspetti, ci arriviamo, perché di qui ci sono dei altri dati che secondo me vanno in quella direzione, da prendere in considerazione e da ricordare chi ci ascolta. Però prima dell'interruzione sul traffico le voglio riproporre un cavallo di battaglia dell'obiezione dei magistrati, perché i magistrati dicono: guardate, vabbè, sui dati non siamo d'accordo, però guardate che negli altri grandi paesi europei non funziona come da noi. Per esempio, dicono, in Francia i termini di prescrizione di 10 anni per i delitti più gravi possono essere interrotti, vengono interrotti da qualunque atto di istruzione o azione giudiziaria. Nel Regno Unito la prescrizione non esiste per i reati medio gravi e gravi, esiste solo per i reati più brevi. In Germania, per i membri del Parlamento e delle Assemblee dei Länder, scatta il termine di prescrizione solo una volta aperto il fascicolo giudiziario e non dalla data di eventuale commissione del reato. Allora, queste sono le obiezioni. A me colpisce molto che sono obiezioni che però non tengono conto di quanto siano diversi gli altri ordinamenti. Ci fermiamo qua, torniamo tra un minuto e con il presidente dell'Unione Camere Penali. La versione di Oscar. Allora, torniamo in diretta. Una risposta: lo sapevo che sulla Consob avrei attirato qualcuna delle vostre osservazioni. Alcuni dicono è l'economia che va male e non c'entrano i regolatori. Non sono d'accordo, cari amici, perché dagli atti giudiziari stiamo scoprendo che i regolatori italiani sapevano che patrimoni di vigilanza di banche come la Popolare di Vicenza da molti anni erano autofinanziati per un terzo, eppure la Banca d'Italia non aveva eccepito sul patrimonio di vigilanza. Abbiamo, e ne abbiamo dato notizia già a novembre, atti dell'ABI e di Banca d'Italia in cui si diceva sì, bisognerebbe formare i clienti, però attenzione, questo significa pregiudicare un canale di funding che praticato ai clienti ordinari e non agli investitori istituzionali è meno oneroso e le banche italiane ne hanno bisogno, ve ne abbiamo dato notizia. Quindi la vigilanza c'entra, e come, secondo me. L'ascoltatore per esempio dice: ma sono del settore, dice, ma com'è possibile che i giornalisti di settore si fingano a volte clienti per vedere cosa viene detto e fatto dagli operatori e agli sportelli con i clienti e non possano averlo fatto e non lo hanno fatto con Banca d'Italia? Sono d'accordo con lei, caro ascoltatore, ma torniamo all'argomento di oggi, cioè le prescrizioni. Allora, abbiamo visto che sui numeri in effetti in 10 anni sono calate moltissimo le prescrizioni, c'è un aumento di nuovo recente, ma rimaniamo lontanissimi dai numeri di 10 anni fa. L'obiezione dei magistrati è in Francia, in Gran Bretagna, in Germania è molto diversa il regime. Però ricordatevi, cari ascoltatori, che allora bisogna dirla tutta, perché in Gran Bretagna è il giudice, non il pubblico ministero, che decide dell'interesse pubblico e della procedibilità per praticamente i reati medi e medio gravi e gravi e gravissimi. È il giudice, non l'accusa, e lì finisce se il giudice dice di no, quindi non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. In Francia e in Germania, verissimo, hanno ragione i magistrati, in Francia si sospende di fronte a ogni atto giudiziario i termini di prescrizione, in Germania è diversa la data da cui scatta per i politici. Peccato che però in Francia e in Germania l'accusa dipende dall'esecutivo, dipende proprio in Francia proprio gerarchicamente, e in Germania a livello di Länder anche in quel caso, pensate, i procuratori sono funzionari pubblici che dipendono dal governo. Allora non è proprio così secondario, capite, perché non c'è l'equivalente del nostro articolo 112, cioè della finta obbligatorietà dell'azione penale, visto che sappiamo perfettamente che poi è la discrezionalità del magistrato che prevale rispetto a decine e decine di migliaia di fascicoli che rimangono lì a poltrire. Allora bisognerebbe adottare anche quelle scelte degli altri ordinamenti e non solo la diversa prescrizione. Sbaglio, Migliucci? No, non c'è niente di meno corretto che evocare ordinamenti disomogenei per prendere ciò che piace e togliere ciò che non piace. Allora ricordiamo che in questi ordinamenti esiste anche la separazione delle carriere. Per esempio, ma poi diciamo anche che non è neanche vero esattamente quello che dicono i magistrati, perché in alcuni paesi esiste anche, come anche nei paesi anglosassoni, in Inghilterra, degli istituti che vengono chiamati dismission, cioè se l'accusa non esercita l'azione penale entro in un certo periodo non si può più avviare il processo. Allora prendere quel che piace per segnalarlo all'opinione pubblica e per far capire che chi non accetta queste teorie sia il bene e gli altri siano il male, credo che sia quanto di più scorretto. Allora, se piace questo, prendiamo anche la separazione delle carriere. Ricordiamo ancora che il 70% circa delle prescrizioni matura nella fase delle indagini, così togliamo anche per gli ascoltatori la favola che siano gli avvocati a bloccare i processi penali, perché le prescrizioni si maturano in una fase dove gli avvocati non c'entrano nulla. Il dato del 2014 riferito al ministro dice che il 56% delle prescrizioni penali matura nella fase prima del dibattimento. Adesso sono un po' diminuite, ma se lei somma quelle del processo di primo grado si riarriva al 72%, perché arrivano al processo che si devono prescrivere. E quindi per essere chiari, non stiamo parlando di gente che si difende dal processo, visto che siamo nelle indagini. Che le indagini sono troppo lunghe. Allora, la fermo qua perché c'è un altro dato su cui riflettere, perché il ministro ha aggiornato i valori numerici delle prescrizioni grado per grado del procedimento nei diversi distretti giudiziari italiani, e lo dico qua ai nostri ascoltatori. Le percentuali di prescrizioni variano in maniera impressionante, perché per esempio nella fase delle indagini, quella predibattimentale, si va dallo 0,1% dati 2014 di Pordenone al 40% di Torino, in corte d'appello si passa dal 2% di Trento al 40% di Napoli. Allora la mia domanda a Migliucci diventa: che cosa ci dicono questi dati? Forse che c'è un problema, il CSM dovrebbe lavorare sulla distribuzione degli organici, ma prima della sua risposta sentiamo come la pensa Francesco, che ci chiama da Roma. Prego Francesco. Buonasera signor Giannino, una buonasera anche al collega Migliucci. Sono ovviamente un avvocato e sposo in pieno quanto detto appunto dal Presidente delle Camere Penali. Qui non si parla, ovvero sia, non si vuole parlare di quello che noi addetti al diritto, che tutti i giorni ci confrontiamo con i tribunali, con le cancellerie, con le procure, sappiamo benissimo, e cioè il fatto che i nostri tribunali, e l'ha appena detto lei citando i dati disomogenei geografici, i nostri tribunali, gran parte, la stragrande parte dei nostri tribunali è sotto organico nelle cancellerie, che sono poi le persone che vanno a fare le notificazioni. Esatto, lei tocca un punto in cui secondo me il regime delle notificazioni, devo dire anche delle impugnative da parte dei PM in caso di sentenze di assoluzione, e anche quello della nullità, secondo me sono tre punti che andrebbero toccati, di cui tutti si ricordano. Ma detto questo, grazie a Francesco. Migliucci, il dato di questa disomogeneità territoriale ci dice che vanno redistribuiti gli organici attuali, oppure hanno ragione i magistrati, bisogna assumerne altre migliaia e migliaia e migliaia? Lei che dice? Tutte e due le cose, nel senso migliaia, migliaia e migliaia non servono, ci dicono che laddove c'è un'organizzazione le cose funzionano, e quindi c'è anche da chiedersi se non serva qualcuno che nelle procure sia capace a organizzare, mentre spesso vi è un bravissimo giurista ma non un bravo organizzatore. Noi abbiamo pubblicato insieme all'Eurispes nel 2008 un libro al quale nessuno ha mai dato risposte, cioè le vere ragioni della irragionevole durata dei processi, e si tratta tutto di disfunzioni organizzative, di sbagliata distribuzione da uffici, perché la indagine condotta dal ministro Orlando dimostra che vi sono degli uffici dove c'è un organico elevato ma i processi non si fanno, e ci sono degli uffici dove si è sotto organico ma si riesce a fare lo stesso. Quindi direi che sono tutte e due le cose, ma l'unica cosa che non si deve fare è allungare i tempi di prescrizione. Allora, sicuramente noi, quello non è un rimedio. Allora, noi abbiamo speso questa nostra inutile lancia, perché vedrete che la politica invece li allungherà, perché c'è uno scontro politico che non vede, come avete visto, i numeri stessi dati dal ministro dicono queste cose, sono diminuite le prescrizioni, 1, 2, c'è un problema di distribuzione territoriale, 3, si invocano altri ordinamenti ma se ne ignorano le differenze ordinamentali. Allora, tutte queste cose dovrebbero rendervi diffidente quando leggete sui giornali che abbiamo le prescrizioni più brevi, perché significa agevolare gli imputati e i delinquenti, perché non è così. Però un'opinione minoritaria, grazie a Migliucci, continuate sulla 24, appuntamento 8:15 ogni mattina come Alessandro Milan, attenti noi due.